Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il conformista di Alberto Moravia. Terza puntata. Il padre si era già avviato su per la scala, una mano sulla balaustrata, senza scomporsi né apparentemente affrettarsi. Ma Marcello, che gli veniva dietro, vide che saliva gli scalini due a due, quasi volando silenziosamente verso il pianerottolo. Come, pensò, un orco da favola calzato degli stivali delle sette leghe. E non dubitò un momento che questa ascesa calcolata e minacciosa avrebbe avuto ragione della fretta disordinata della madre, che poco più su scappava per gli scalini uno per uno con le gambe impacciate dalla gonna stretta. Ora l'ammazza, pensò seguendo il padre. Giunta sul pianerottolo, la madre fece una piccola corsa fino alla sua camera, non tanto rapida però da impedire al marito di insinuarsi dietro di lei per la fessura della porta. Tutto questo Marcello lo vide ascendendo la scala con le sue gambe corte di bambino, che non gli consentivano né di salire due gradini per volta come il padre, né di saltellare in fretta come la madre. Come arrivò al pianerottolo, notò che al fracasso dell'inseguimento era, adesso, subentrato stranamente un silenzio improvviso. La porta della camera della madre era rimasta aperta. Marcello, un po' titubante, si affacciò sulla soglia. Dapprima non vide, in fondo alla camera in penombra, ai due lati del largo letto basso, che le due grandi tende vaporose delle finestre, sollevate da una corrente di vento dentro la stanza, su, su, verso il soffitto, fin quasi a sfiorare il lume centrale. Queste tende silenziose, biancheggianti a mezzana nella camera buia, davano un senso di deserto, come se inseguendosi i genitori di Marcello si fossero involati fuori dalle finestre spalancate nella notte estiva. Poi, nella striscia di luce che dal corridoio attraverso la porta giungeva fino al letto, scorse finalmente i genitori. O meglio, non vide che il padre, di schiena, sotto il quale la madre scompariva quasi completamente, salvo che per i capelli, sparsi sul guanciale e per un braccio levato verso la spalliera del letto. Questo braccio cercava convulsamente di aggrapparsi con la mano alla spalliera, senza però riuscirvi. E intanto il padre, schiacciando sotto il proprio corpo il corpo della moglie, faceva con le spalle e con le mani dei gesti come se avesse voluto strangolarla. «La sta ammazzando», pensò Marcello convinto, fermandosi sulla soglia. Provava in quel momento una sensazione insolita di eccitazione pugnace e crudele e insieme un desiderio forte di intervenire nella lotta. Non sapeva neppur lui se per dar mano forte al padre o difendere la madre. Nello stesso tempo quasi gli sorrideva la speranza di vedere, attraverso questo delitto tanto più grave, cancellato il proprio, che era infatti l'uccisione di un gatto in confronto di quella di una donna. Ma proprio nel momento in cui, vincendo l'ultima esitazione, affascinato e pieno di violenza, si muoveva dalla soglia, la voce della madre, per niente strozzata, anzi quasi carezzevole, mormorò piano «Lasciami». E in contraddizione con questa preghiera, il braccio che ella aveva tenuto sino allora alzato a cercare l'orlo della spalliera si abbassò a cingere la nuca del marito. Meravigliato, quasi deluso, Marcello indietreggiò e uscì nel corridoio. Pian piano, procurando di non far rumore sugli scalini, discese a pian terreno e si diresse verso la cucina. Adesso lo pungeva di nuovo la curiosità di sapere se il gatto che era saltato giù dalla finestra nella sala da pranzo fosse quello che temeva di avere ucciso. Spenta la porta della cucina, gli apparve un tranquillo quadro casalingo. La cuoca matura e la giovane cameriera, sedute alla tavola di marmo in atto di mangiare nella cucina bianca tra il fornello elettrico e la ghiacciaia. E in terra, sotto la finestra, il gatto intento a leccare con la lingua rosea il latte di una ciotola. Ma come si accorse subito con delusione, non era il gatto grigio, bensì un gatto striato del tutto diverso. Non sapendo come giustificare la propria presenza nella cucina, andò al gatto, si abbassò e lo accarezzò sul dorso. Il gatto, pur senza interrompere di leccare il latte, prese a far le fusa. La cuoca si alzò e andò a chiudere la porta, poi aprì la ghiacciaia, ne trasse un piatto con una fetta di dolce, lo posò sulla tavola e, accostando una seggiola, disse a Marcello: «Vuoi un po' del dolce di ieri sera? L'ho messo apposta da parte per te». Marcello, senza dir parola, lasciò il gatto, sedette e cominciò a mangiare il dolce. La cameriera disse: «Io però certe cose non le capisco. Hanno tanto tempo durante la giornata, hanno tanto posto in casa e invece, proprio a tavola, in presenza del bambino, debbono litigare». La cuoca rispose sentenziosamente: «Quando non si ha voglia di occuparsi dei figli, è meglio non metterli al mondo». La cameriera, dopo un breve silenzio, osservò: «Lui, per l'età, potrebbe essere suo padre. Si capisce che non vanno d'accordo». «Fosse soltanto questo», disse la cuoca con uno sguardo pesante in direzione di Marcello. «E poi», continuò la cameriera, «secondo me quell'uomo non è normale». Marcello, a questa parola, pur continuando a mangiare lentamente il dolce, drizzò l'orecchio. «Anche lei la pensa come me», proseguì la cameriera. «Sai che mi ha detto l'altro giorno, mentre la spogliavo per andare a letto? Giacomina, un giorno o l'altro mio marito mi uccide». Io le ho risposto: «Ma signora, che aspetta a lasciarlo?» E lei... «Shh!» la interruppe la cuoca, indicando Marcello. La cameriera comprese e domandò a Marcello: «Dove sono papà e mamma?» «Su, in camera», rispose Marcello. E poi, tutto ad un tratto, come spinto da un impulso irresistibile: «È proprio vero che papà non è normale. Lo sapete cosa ha fatto?» «No, che cosa?» «Ha ammazzato un gatto», disse Marcello. «Un gatto? E come?» «Con la mia fionda. L'ho visto io, nel giardino, seguire un gatto grigio che camminava sul muro. Poi ha preso un sasso e ha tirato al gatto e l'ha colpito in un occhio. Il gatto è caduto nel giardino di Robertino. E poi io sono andato a vedere e ho visto che era morto». Via via che parlava, si era infervorato, senza tuttavia abbandonare il tono dell'innocente che, con ignara e candida ingenuità, racconta qualche misfatto al quale abbia assistito. «Ma pensa un po'», disse la cameriera, giungendo le mani. «Un gatto, un uomo di quell'età, un signore prendere la fionda del figlio e ammazzare un gatto. E poi non bisogna dire che è un anormale. Chi è cattivo con le bestie è anche cattivo con i cristiani», disse la cuoca. «Si comincia con un gatto e poi si ammazza un uomo». «Perché?» domandò ad un tratto Marcello, levando gli occhi dal piatto. «Si dice così», rispose la cuoca, facendogli una carezza. «Sebbene», soggiunse rivolta alla cameriera, «non sia sempre vero. Quello che ammazzò tutta quella gente a Pistoia, l'ho letto nel giornale, sai cosa fa adesso in prigione? Alleva un canarino». Il dolce era finito. Marcello si alzò e uscì dalla cucina. Durante l'estate, al mare, il terrore della fatalità espressa così semplicemente dalla cuoca, si comincia con un gatto e poi si ammazza un uomo, pian piano svanì dall'animo di Marcello. Egli pensava ancora spesso a quella specie di meccanismo imperscrutabile e spietato in cui per alcuni giorni pareva che si fosse impigliata la sua vita, ma con sempre minore spavento, piuttosto come a un segnale d'allarme che alla condanna senza appelli che per qualche tempo aveva temuto. I giorni passavano lieti, ardenti di sole, inebrianti di salsedine, vari di svaghi e di scoperte, e a Marcello ogni giorno che passava pareva di conseguire non sapeva che vittoria, non tanto contro se stesso, che non aveva mai sentito colpevole in maniera volontaria e diretta, quanto contro la forza oscura, malefica, astuta ed estranea, tutta colorata delle tinte brune della fatalità e della disgrazia che l'aveva portato, quasi suo malgrado, dallo sterminio dei fiori alla strage delle lucertole e da questa al tentativo di uccidere Roberto. Questa forza la sentiva sempre presente e minacciosa, seppure non più incombente, ma come avviene talvolta negli incubi, quando atterriti dalla presenza di un mostro si pensa di blandirlo fingendo di dormire, mentre in realtà è tutto un sogno che si fa dormendo. Gli pareva che, non potendo allontanare definitivamente la minaccia di quella forza, gli convenisse addormentarla, per così dire, fingendo un oblio spensierato che era ancor lontano dall'aver raggiunto. Fu quella una delle estati più sfrenate, se non più felici, di Marcello, e certamente l'ultima della sua vita in cui fu bambino senza alcun disgusto della puerizia e alcun desiderio di uscirne. In parte questo abbandono era dovuto alla naturale inclinazione dell'età, ma in parte anche alla volontà di uscire a tutti i costi dal cerchio maledetto dei presagi e della fatalità. Marcello non se ne rendeva conto, ma l'impulso che lo spingeva a gettarsi nell'acqua del mare 10 volte in una mattina, a gareggiare in turbolenza coi più violenti compagni di giochi, a remare per ore sul mare infuocato, a fare insomma con una specie di zelo eccessivo tutte le cose che si fanno sulle spiagge, era pur sempre lo stesso che gli aveva fatto ricercare la complicità di Roberto dopo la strage delle lucertole e la punizione dei genitori dopo la morte del gatto. Un desiderio di normalità, una volontà di adeguazione ad una regola riconosciuta e generale, una voglia di essere simile a tutti gli altri, dal momento che essere diverso voleva dire essere colpevole. Ma il carattere volontario e artificioso di questa sua condotta si tradiva ogni tanto nel ricordo improvviso e doloroso del gatto morto disteso fra gli iris bianchi e violetti nel giardino di Roberto. Quel ricordo lo spaventava come spaventava il debitore il ricordo della propria firma apposta in fondo al documento che comprova il suo debito. Gli pareva, con quella morte, di aver preso un impegno oscuro e terribile al quale presto o tardi non avrebbe potuto sottrarsi, anche se si fosse nascosto sottoterra oppure avesse varcato gli oceani per far perdere le proprie tracce. In quei momenti si consolava pensando che erano passati 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, che presto sarebbe passato 1 anno, 2 anni, 3 anni, che insomma quel che più importava era non svegliare il mostro e far trascorrere il tempo. Del resto questi soprassalti di sconforto e di paura erano rari e verso la fine dell'estate cessarono del tutto. Come Marcello tornò a Roma, dell'episodio del gatto e di quelli che l'avevano preceduto non gli restava ormai che una diafana, quasi evanescente rimembranza, come di un'esperienza che egli aveva forse vissuto, ma in un'altra vita, con la quale appunto non aveva altri rapporti che di ricordo irresponsabile e senza conseguenze. All'oblio poi contribuì anche, una volta tornato in città, l'eccitazione dell'ingresso a scuola. Marcello aveva sin allora studiato in casa e quello era il suo primo anno di scuola pubblica. La novità dei compagni, dei professori, delle aule, degli orari, novità in cui traluceva, pur nella varietà d'aspetti, un'idea di ordine, di disciplina e di occupazione in comune, piacque assai a Marcello, dopo il disordine, la mancanza di regole e la solitudine di casa sua. Era un po' il collegio da lui sognato, quel giorno a tavola, ma senza costrizioni né servitù, soltanto coi suoi aspetti piacevoli e senza quelli spiacevoli che facevano rassomigliare ad una prigione. Marcello si accorse ben presto che un gusto profondo lo portava alla vita scolastica. Gli piaceva alla mattina alzarsi a tempo di orologio, lavarsi e vestirsi in fretta, chiudere ben stretto e nitido il suo pacco di libri e di quaderni nell'incerato legato con gli elastici e affrettarsi per le strade verso la scuola. Gli piaceva irrompere con la folla dei compagni nel vecchio ginnasio, correre su per i sudici scaloni, per i corridoi squallidi e sonori e poi smorzare la foga della corsa nell'aula, tra i banchi allineati davanti la cattedra vuota. Gli piaceva soprattutto il rituale delle lezioni, l'ingresso del professore, l'appello, le interrogazioni, l'emulazione con i compagni per rispondere alle domande, le vittorie e le sconfitte di questa emulazione, il tono pacato, impersonale, della voce dell'insegnante, la disposizione stessa così eloquente dell'aula, loro in fila accomunati dallo stesso bisogno di imparare davanti il professore che insegnava. Marcello era però un mediocre scolaro e per certe materie addirittura uno degli ultimi. Ciò che amava a scuola non era tanto lo studio, quanto un modo tutto nuovo di vita, più conforme ai suoi gusti di quello tenuto sinora. Ancora una volta era la normalità che l'attraeva, e tanto più in quanto gli si rivelava non casuale né affidata alle preferenze e alle inclinazioni naturali dell'animo, bensì prestabilita, imparziale, indifferente ai gusti individuali, limitata e sorretta da regole indiscutibili e tutte rivolte ad un fine unico. Ma la sua inesperienza e il suo candore lo rendevano goffo e incerto di fronte alle altre regole, taciute eppure esistenti, che riguardavano i rapporti dei ragazzi tra di loro, fuori della disciplina scolastica. Era anche questo un aspetto della nuova normalità, ma più difficile da padroneggiare. Ne ebbe la sensazione la prima volta che fu chiamato alla cattedra per mostrare il compito scritto. Poiché il professore gli ebbe preso di mano il quaderno e posandolo sulla cattedra davanti a sé si accinse a leggerlo, Marcello, avvezzo ai rapporti affettuosi e familiari con le maestre che sin allora lo avevano istruito a casa, invece di starsene ritto in disparte sul palco aspettando il responso, molto naturalmente mise un braccio intorno alle spalle dell'insegnante e chinò il viso accanto a quello di lui per seguire con lui la lettura del compito. Il professore si limitò, senza mostrare alcuna meraviglia, a togliere la mano che Marcello gli posava sulla spalla e a liberarsi del braccio, ma tutta la scolaresca ruppe in una risata clamorosa in cui parve a Marcello di avvertire una disapprovazione diversa da quella del professore, molto meno indulgente e comprensiva. Con quel gesto ingenuo non poté fare a meno di riflettere più tardi, appena gli riuscì di sormontare il disagio della vergogna. Egli aveva mancato insieme a due norme diverse: quella scolastica, che lo voleva disciplinato e rispettoso del professore, e quella dei ragazzi, che lo voleva malizioso e dissimulato negli affetti. E ciò che era ancora più singolare, queste due norme non si contraddicevano, anzi, si completavano in maniera misteriosa. Ma come capì subito se era abbastanza facile diventare in breve tempo uno scolaro efficiente? Molto più difficile era diventare un compagno scaltrito e disinvolto. A questa seconda trasformazione si opponevano la sua inesperienza, le sue abitudini familiari e perfino il suo aspetto fisico. Marcello aveva ereditato da sua madre una perfezione di tratti quasi leziosa nella sua regolarità e dolcezza. Aveva un viso tondo, dalle guance brune e delicate, il naso piccolo, la bocca sinuosa, dall'espressione capricciosa e imbronciata, il mento rilevato e sotto la frangia dei capelli castani che gli ricopriva quasi per intero la fronte, occhi tra grigi e azzurri, di espressione un po' fosca, sebbene innocente e carezzevole. Era quasi un viso di fanciulla. Ma i ragazzi, così rozzi, non se ne sarebbero forse accorti se la dolcezza e bellezza del viso non fossero state confermate da alcuni caratteri addirittura femminili, così da far dubitare che Marcello non fosse davvero una bambina vestita da maschio. Una facilità insolita di arrossire, un'inclinazione irresistibile a esprimere la tenerezza dell'animo con gesti carezzevoli, un desiderio di piacere spinto fino alla servilità e alla civetteria. Questi tratti erano nativi in Marcello e però inconsapevoli. Quando si rese conto che lo rendevano ridicolo agli occhi dei ragazzi, era ormai troppo tardi. Anche se avesse potuto controllarli, se non sopprimerli, la sua reputazione di femminuccia in calzoni era ormai stabilita. Lo prendevano in giro in una maniera quasi automatica, come se il suo carattere femminile fosse ormai fuori discussione. Ora gli chiedevano con finta serietà come mai non sedesse nei banchi delle ragazze e che idea gli era venuta di cambiare la gonna coi calzoni, ora come passasse il tempo a casa, se ricamando oppure giocando con le bambole, ora perché non avesse i buchi ai lobi delle orecchie per impilarci gli orecchini. Talvolta gli facevano trovare sotto il banco una pezzuola con un ago e un gomitolo, chiara allusione al genere di lavoro al quale avrebbe dovuto dedicarsi, talora uno scatolino di cipria, un mattino addirittura un reggipetto rosa che uno dei ragazzi aveva rubato alla sorella maggiore. Fin da principio, poi, trasformando il suo nome in un diminutivo femminile, l'avevano chiamato Marcellina. Egli provava di fronte a queste canzonature un sentimento misto di stizza e di non sapeva che lusingato compiacimento, come se una parte di lui, in fondo, non fosse stata troppo scontenta. Tuttavia non avrebbe saputo dire se questo compiacimento fosse dovuto alla qualità della canzonatura oppure al fatto che, sia pure per beffarlo, i compagni si occupavano di lui. Ma una mattina, che al solito gli sussurravano dietro le spalle «Marcellina, Marcellina, è vero che hai le mutandine di donna?» Egli si alzò e, richiesto con il braccio alzato di parlare, si lagnò con voce forte, nel silenzio improvviso della classe, di essere chiamato con un soprannome femminile. Il professore, un omaccione barbuto, lo ascoltò, sorridendo tra i peli della barba grigia, e poi disse «Ti chiamano con un soprannome di donna. E qual è?» «Marcellina», disse Marcello. «E ti dispiace?» «Sì, perché sono un uomo». «Vieni qui», disse il professore. Marcello obbedì e venne a mettersi accanto alla cattedra. «Ora», continuò piacevolmente il professore, «mostra i tuoi muscoli alla classe». Marcello, ubbidiente, piegò il braccio gonfiando i muscoli. Il professore si sporse dalla cattedra, gli toccò il braccio, scosse il capo in segno di ironica approvazione e poi, rivolto alla scolaresca, disse «Come potete vedere, Clerici è un ragazzo forte ed è pronto a dimostrare di essere un uomo e non una donna. Chi vuole sfidarlo?» Seguì un lungo silenzio. Il professore girò lo sguardo sulla classe e quindi concluse «Nessuno. Allora è segno che avete paura di lui. Dunque smettetela di chiamarlo Marcellina». Tutta la scolaresca scoppiò in una risata. Rosso in viso, Marcello tornò al suo posto. Ma da quel giorno, Invece di cessare, le canzonature raddoppiarono, inasprite forse dal fatto che Marcello, come gli dissero, aveva fatto la spia, mancando in tal modo alla tacita legge di omertà che legava tra loro i ragazzi. Marcello si rendeva conto che per far cessare queste canzonature doveva dimostrare ai compagni di non essere così effeminato come sembrava, ma intuiva che per una simile dimostrazione non bastava, come gli aveva suggerito il professore, ostentare i muscoli del braccio. Ci voleva qualche cosa di più insolito, atto a colpire le immaginazioni e a suscitare ammirazione. Che cosa? Non avrebbe saputo dirlo con precisione, ma in senso generale un'azione o un oggetto che suggerissero idee di forza, di virilità, se non addirittura di brutalità. Aveva notato che i compagni ammiravano assai certo Avanzini perché possedeva un paio di guantoni di cuoio da box. Quei guantoni, Avanzini, un biondino mingherlino più piccolo e meno forte di lui, non sapeva neppure adoperarli. Tuttavia gli avevano fruttato una considerazione particolare. Analoga ammirazione andava pure a certo Pugliese, perché conosceva, o meglio pretendeva di conoscere, un colpo di lotta giapponese, infallibile a suo dire, per mettere a terra l'avversario. Alla prova, a dire il vero, Pugliese non aveva mai saputo applicarlo. Questo però non impediva che i ragazzi lo rispettassero allo stesso modo di Avanzini. Marcello capiva che doveva quanto prima ostentare il possesso di un oggetto come i guantoni oppure escogitare qualche prodezza del genere della lotta giapponese, ma capiva pure di non essere così leggero e così dilettantesco come i suoi compagni, di appartenere invece, gli piacesse o no, alla razza di coloro che prendono sul serio la vita e i suoi impegni e che al posto di Avanzini avrebbe rotto il naso ai suoi avversari e al posto di Pugliese gli avrebbe fiaccato il collo. Questa sua incapacità di retorica e di superficialità gli ispirava un'oscura diffidenza verso se stesso. Così, mentre desiderava fornire ai compagni la prova di forza che sembravano domandargli in cambio della loro considerazione, al tempo stesso ne era oscuratamente spaventato. Tommaso Ragno ha letto Il conformista di Alberto Moravia. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.